quel sapore eterno, resta quel che resta. E se qualcosa poi non va, senti quel vuoto dentro. Le strade non hanno un nome e non sei contento, non sei più contento di te. E che cerchi in me, e in questo tempo che passa mi accorgo che mi manchi. I miss you. Se qualcuno ti dirà che si può anche impazzire senza discutere, spiegare al tuo cuore, resta quel che resta. E se qualcosa ci sarà oltre quegli occhi chiusi, devi pretendere vita migliore, essere contento di te. Contento di te.